2. Ascolta e ripeti. Scusa, mi dispiace. Hai ragione tu. È meglio prenotare in anticipo, così forse abbiamo uno sconto. Bene, allora siamo d'accordo. Certo. Senti, vuoi qualcosa da mangiare? Preparo uno spuntino prima di uscire? No, non devi. Puoi mangiare una mela se vuoi. Via quelle patatine. Ecco fatto. Via le patatine. Ecco qualcosa da leggere. Che cosa è? È la tua dieta. Ricordi i nostri amici svizzeri? Lui è un dietologo. Secondo lui è possibile fare questa dieta senza troppi sforzi. Puoi mangiare praticamente tutto. Vedo. Lo sgombro è proprio un pesce squisito. Senti questa. Condire senza grassi. Ma è permesso usare le spezie, lo zenzero, lo zafferano. Maria? Brava! Questo è proprio un bello scherzo. Sembri davvero seria. Ma sono seria! Inizi la dieta lunedì, per 6 mesi. Dopo questi mesi andiamo in vacanza. E finalmente ricomincio a mangiare. Esattamente, ricominci a mangiare bene. Le nostre vacanze sono in un albergo famoso per la cucina biologica leggerissima. Ah, capisco. Non ho speranza. Scusa, Maria, ma che cosa è questa? È cioccolata fondente, ma è la mia. Ma è un chilo. Lo so, non ho problemi di linea e faccio tanto sport.